ci si sbucioni te, ponese te, i cluci telefoni te, ponese te, chiama scrai, problemi te, lì ci te, tu scepni te, già se svegli, mezzo caffè, sticcio se ti è da te. Ci si sta, chi c'è tu, beh, si scusi.